Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com. La storia di radio che vi raccontiamo oggi parte ufficialmente dal 1950, ma le premesse di questa storia partono 30 anni prima, esattamente al 21 gennaio 1921, 100 anni fa, quando al termine del 17° congresso del Partito Socialista Italiano la frazione comunista si divide e a Livorno dà vita al Partito Comunista d'Italia, quello che poi diventerà Partito Comunista Italiano. Il neonato partito aderisce immediatamente alla Terza Internazionale, l'organizzazione dei partiti comunisti creata e dominata dalla neonata Unione Sovietica, e qui cominciano i rapporti con gli altri partiti che si consolideranno nel corso della successiva clandestinità, e poi con il termine della Seconda Guerra Mondiale, con il dipanarsi di questi rapporti intrecciati nel trentennio precedente con i partiti comunisti dell'Europa dell'Est, divenuti ormai, sempre sotto l'egida di Mosca, partiti di potere. I rapporti erano particolarmente buoni con il Partito Comunista Cecoslovacco, con il quale furono sottoscritti una serie di accordi, sia politici che economici. Alcune migliaia di lavoratori italiani rimasti disoccupati in patria ebbero accoglienza e lavoro in Cecoslovacchia, e accanto ad essi ci fu anche una consistente emigrazione politica. Si trattava per lo più di militanti comunisti, ex partigiani, che erano in attesa di processi per i fatti del biennio successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E proprio attingendo all'interno di questo gruppo che si formerà il primo nucleo operativo della radio Oggi in Italia, che dal 1950 iniziò a trasmettere programmi alternativi in lingua italiana dalla Cecoslovacchia verso l'Italia per conto del Partito Comunista Italiano. Ed è questa la storia che vi raccontiamo oggi. Nel dicembre del 1950 in Italia i radioascoltatori scoprirono l'esistenza di una nuova ed insolita trasmissione chiamata Oggi in Italia. Il programma, trasmesso di sera, iniziava alle 22:30 con l'incipit musicale dell'Inno dei Lavoratori di Turati, seguito dai versi d'apertura dell'Inno di Garibaldi. Proseguiva con 15 minuti di notiziario e informazioni culturali a forte contenuto antigovernativo e pro Partito Comunista. Nel 1950 i radioascoltatori erano già abituati ai programmi in lingua italiana trasmessi da Radio Mosca, che erano iniziati nel 1936, ma Oggi in Italia rappresentava qualcosa di completamente diverso. Il programma sembrava provenire dall'interno dell'Italia ed era interamente dedicato alla discussione di avvenimenti in o attorno all'Italia. Radio Mosca, d'altra parte, era un veicolo di propaganda per il Partito Comunista Sovietico, concepito soprattutto per informare gli ascoltatori sulla vita dell'Unione Sovietica e, in misura minore, del mondo intero. Già nel 1951 Oggi in Italia fu protratta a mezz'ora e trasmessa due volte, ma sempre di sera. Sabato all'ora di pranzo il programma comprendeva anche notizie sportive. Dato il tono fortemente polemico della trasmissione, non deve stupire che abbia presto attirato l'attenzione del governo democristiano in Italia, al quale la vittoria elettorale del 1948 aveva dato un enorme potere, compreso il controllo dell'emittente pubblica Rai. Nacque subito il sospetto che oggi in Italia non fosse, come sembrava, trasmessa dall'Italia, ma che provenisse piuttosto dalla comunista Cecoslovacchia. Il Partito Comunista Italiano aveva buone relazioni con l'omologo ceco e, per di più, tutti sapevano che molti ex partigiani comunisti, accusati nel dopoguerra di aver ucciso dei fascisti, erano scappati in Cecoslovacchia per sfuggire al procedimento penale. Questi partigiani, così si ipotizzava, c'entravano in qualche modo con le trasmissioni che rientravano in un patto di mutua assistenza tra i due partiti comunisti. Nell'agosto del 1951 il governo italiano era ormai convinto che il programma provenisse dalla Cecoslovacchia, tanto da inviare una formale lettera di protesta all'ambasciatore ceco a Roma. Il ministro degli affari esteri ha l'onore di richiamare la più seria attenzione della legazione di Cecoslovacchia sulla trasmissione di Radio Praga e altre emittenti situate in territorio cecoslovacco, tra cui quella che diffonde il programma intitolato Oggi in Italia, che da lungo tempo, in violazione delle norme più elementari della convivenza internazionale e con una metodica falsificazione della verità, denigrano la nazione italiana. Il governo italiano si è fin qui astenuto dal protestare, in attesa che le stesse autorità cecoslovacche desistessero spontaneamente da forme di propaganda che, in un clima di libertà civile e politica come quello italiano, non possono trovare credito e altro non sono che manifestazioni ingiuriose. Ma, dinanzi al persistere e all'accentuarsi di questa campagna, il governo italiano deve elevare una formale protesta che non si riferisce soltanto al tono e al linguaggio offensivo, ma anche al fatto che alcuni programmi della radio di Stato cecoslovacca vengono addirittura trasmessi per guadagnarsi credito in una forma tale da far credere che si tratti di emissioni effettuate in Italia. Nel formulare tale protesta, il governo italiano invita il governo cecoslovacco a prendere gli opportuni provvedimenti per far cessare un'azione che non solo è contraria alle norme e consuetudini internazionali, ma si riflette sfavorevolmente su quella distensione degli animi e quella pacificazione internazionale che gli stessi organi della propaganda comunista e le stesse autorità cecoslovacche pretendono continuamente di auspicare. Il Ministero degli Affari Esteri, nell'indicare a nome del governo italiano, la legazione di Cecoslovacchia a comunicare quanto procede al suo governo, coglie l'occasione per presentare gli atti della sua alta considerazione. Questo fu il primo dei tre tentativi, il secondo del 1954, il terzo del 1958, di servirsi dei canali diplomatici per impedire la trasmissione del programma. Nessuno di questi tentativi ebbe successo, ma provano l'importanza che i cristiano-democratici attribuivano a Oggi in Italia e i problemi che procurava loro. Il programma continuò ad essere trasmesso e cessò soltanto dopo l'invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968. Oggi in Italia ha ricevuto scarsa attenzione dagli studiosi. La casistica sulla radiodiffusione di solito la cita brevemente e gli studi sul movimento comunista italiano ne accennano casualmente. Questa apparente mancanza di interesse può essere attribuita all'assenza di una qualsiasi significativa documentazione d'archivio relativa al programma e alla segretezza che lo circondava. Comunque, con la caduta del muro di Berlino del 1989 e l'apertura agli studiosi di importanti archivi, la situazione è cambiata. Lavorando con l'archivista fiorentino Stefano Vitali, lo storico Giovanni De Luna ha potuto studiare nel 1992 alcune trascrizioni del programma conservate negli archivi di Radio Praga. egli allora presentò un'affascinante serie di programmi per Rai 3 che riproducevano alcune di quelle trasmissioni originali. Infatti si parla di riproduzioni perché in effetti un archivio sonoro di questa emittente non esiste. Esistono però corposi archivi cartacei e grazie alla documentazione in essi conservata, lo storico De Luna ha potuto realmente ricostruire, grazie a degli attori, molte delle trasmissioni più interessanti di oggi in Italia. Una in particolare, che vi riproponiamo in questo podcast, è relativa alla programmazione di questa emittente. Ascoltiamola nella ricostruzione di De Luna e di Rai Radio 3. Cosa è oggi in Italia? Amici ascoltatori, dopo avervi parlato in questi giorni, come poteva e quando poteva, oggi in Italia verrà da voi da domani, ogni sera, due volte al giorno, alle 20:30 e alle 22, su onde medie di metri 243 e 5, per dirvi come nell'Italia e nel mondo si è lottato per la pace, il benessere e la libertà. E verrà a voi con nuove rubriche, con una rassegna degli avvenimenti ed un panorama della giornata, nell'Italia e nel mondo, più aggiornato e più ampio. In macchina o a piedi, in bicicletta o col telefono, verrà a voi quasi ogni giorno il radiocronista. Ogni settimana vi consiglieremo un libro per la vostra biblioteca. Alle donne, oggi in Italia, dirà come devono lottare per conquistarsi una famiglia felice. E vi parleremo della vita, delle arti e delle lettere. Torneranno due volte alla settimana, il sabato e il mercoledì, Giovanni e Piero, a raccontarvi la storia gloriosa del PC. Tutti i giovedì alle 20:30, su onde medie di metri 243 e 5, risentirete la tromba di Libera Uscita. Esattamente un'ora dopo, alle 22, sulla stessa onda, potrete ascoltare una nota politica e la nostra rubrica dedicata al movimento democratico di tutto il mondo nella lotta per la pace. Tutti i venerdì, invece, oggi in Italia si taccerà alle 20:30 la stampa gialla italiana e alle 22 denuncerà documentatamente Tito ed il titismo come i peggiori nemici della pace e del socialismo. Per gli ascoltatori che vorranno avere fatto il punto della situazione internazionale, basterà che ascoltino il nostro quadrante ogni sabato alle 22. Ogni domenica, oggi in Italia vi parlerà tre volte al giorno. Alle 12:45 su onde corte di metri 25 e 21 con una trasmissione dedicata ai contadini e una rassegna sportiva. Alle 20:30 con le peregrinazioni della carovana di oggi in Italia che si recherà ogni domenica in una regione d'Italia. Alle 22 e per la terza e ultima volta nel corso della domenica ci ascolterete ancora con 7 giorni al Parlamento e nel Paese. E dopo avervi condotto nel paese del socialismo, vi faremo gustare una bella canzone e vi augureremo finalmente la buonanotte. Durante la settimana potrete ascoltare sulla trasmissione delle 20:30 registrazioni e radiocronache di avvenimenti in Italia e nel mondo. Inoltre avrete gli aneddoti, vi apriremo la bottega degli scandali democristiani, vi diremo quel che bisogna credere per essere, secondo De Gasperi, un buon cittadino. Vi presenteremo giornali e riviste. Elencheremo le menzogne, ahi noi troppo numerose, di Radio Roma. Risponderemo alla vostra curiosità, vi leggeremo pensieri di personaggi illustri ed infine vi diremo chi è il più fesso della settimana. Ed ora, amici ascoltatori, arrivederci a domani sera alle 20:30 su onde medie di metri 243,5 e corte di metri 31,57 e dalle ore 22 su onde medie di metri 243,5. L'idea di un programma radiofonico in italiano sembra essere nata dall'interno dello stesso PC. Il partito aveva perso le elezioni politiche del 1948 ed aveva bisogno di un mezzo per diffondere i suoi messaggi sia ai fedeli del partito che ai potenziali futuri elettori. Di fatto, negli anni 50 al PC era negato l'accesso ai canali della radio pubblica e, a partire dalla metà degli anni 50, anche al nuovo mezzo televisivo che aveva iniziato nel frattempo le trasmissioni in Italia. L'idea di una nuova emittente che aiutasse la causa comunista internazionale anche in Italia piaceva un po' a tutti, anche perché, ricordiamolo, in quegli anni la guerra delle radio si svolgeva senza esclusione di colpi. Dall'altra parte, quindi dalla parte occidentale, gli Stati Uniti avevano iniziato la loro opera di propaganda attraverso Radio Free Europe, Radio Europa Libera, che trasmetteva dalla Germania occidentale verso i paesi del blocco sovietico. Un documentario d'epoca con la voce di Walter Cronkite riassume le attività di propaganda e di diffusione delle notizie dall'Occidente verso i paesi dell'Est. To the people of Eastern Europe. This is the version taught in the schools, and this is the version that would eventually be accepted as true if we allow it to stand unchallenged. But it is challenged. We challenge it by building and supporting Radio of Free Europe. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Tuke Radio, Svobodna Evropa. Głosot na Svobodna Bulgaria. Aici Radio Europa Libera, vocea României Libere. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa. These are the voices that destroy the communist monopoly of information. There is no clearer demonstration of this than RFE's role in one of the most significant events of our time. Dal punto di vista storiografico è interessante notare che negli archivi del PC non esiste nessuna nota, nessun documento ufficiale dell'accordo tra il Partito Comunista Italiano e quello cecoslovacco. L'unico documento che è stato rintracciato a tal proposito è una nota informativa del 1950 scritta da Luigi Amadesi, dirigente del PC molto vicino a Togliatti. Nella nota Amadesi afferma che i programmi sarebbero partiti a dicembre di quell'anno e che era stato fatto tutto il possibile per assicurarne la qualità e che avrebbero trattato tutte le questioni della vita politica italiana. Il gruppo iniziale dello staff di Oggi in Italia era composta da 5 persone: Francesco Moranino, Aroldo Tolomelli, Francesco Nulchis, Bruno Montanari e Vincenzo Guarisco, che andavano in onda utilizzando degli pseudonimi per non essere riconosciuti dalle autorità italiane. I primi mesi di trasmissioni furono per lo più caratterizzati anche da una certa dose di improvvisazione, in quanto nessuno dei personaggi coinvolti aveva effettiva esperienza di giornalismo. Successivamente però la redazione fu potenziata anche con l'inserimento di giornalisti professionisti e lo staff arrivò a contare 19 persone. La struttura italiana fu trasferita dagli studi della radio pubblica cecoslovacca in una villa poco fuori Praga che venne denominata Villa degli Italiani. Qui questo gruppo assai eterogeneo di persone lavorava e viveva praticamente in comunità. Tra i nuovi arrivati Paola Bertelli, che molti anni dopo descrisse la sua esperienza a Oggi in Italia in un libro intitolato Praga, radio clandestina. Ma a collaborare con questa radio clandestina furono chiamati anche nomi poi diventati celebri nel giornalismo italiano. Due nomi in particolare: Carlo Ripa di Meana, successivamente passato al Partito Socialista, e Sandro Curzi, che dopo molti anni all'Unità fu chiamato in Rai a dirigere il nuovo TG3 a partire dai primi anni 80. Giancarlo Baietta mi chiese di andare al partito a sostituire il responsabile della stampa e propaganda, e nei compiti c'era Oggi in Italia da seguire con attenzione. Andai a Praga su decisione della Federazione Giovanile Comunista e dell'Unità, ed è lì che in qualche modo di nuovo incrociai in forma però molto indiretta l'esistenza in città della radio riservata Oggi in Italia. Si trasmetteva da Praga, ma Oggi in Italia diventava l'emittente ufficiale del PC e aveva libertà assolute rispetto allo Stato e al partito cecoslovacco. Ma qual era la penetrazione in Italia di questa emittente? Lo storico De Luna nella sua trasmissione parla di un coinvolgimento di punta di 4 milioni e 800 mila ascoltatori, un numero da far invidia anche agli attuali network che operano in Italia. La radio ovviamente era sponsorizzata da tutte le strutture territoriali del Partito Comunista Italiano, si ascoltava nelle sezioni, nei bar, e non mancarono i tentativi da parte del governo italiano di proibire l'ascolto pubblico di questa emittente. La fonte principale delle notizie date da Oggi in Italia era ovviamente la redazione romana dell'Unità. Ogni giorno alle ore 16 c'era un collegamento telefonico tra Praga e Roma, nel corso del quale venivano inviate le notizie che poi sarebbero state ritrasmesse nei notiziari. Nel 1960 c'è anche un salto di qualità, perché l'emittente da Praga segue praticamente in diretta tutti gli avvenimenti drammatici che seguirono ai moti di Genova di quell'anno, con le manifestazioni, la successiva repressione e i morti che poi sono passati alla storia come i morti di Reggio Emilia. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. All'inizio degli anni 60 il clima politico sta cambiando. Il 1956 e l'invasione sovietica dell'Ungheria hanno prodotto un gravissimo strappo all'interno del movimento comunista. Alcuni grandi nomi hanno abbandonato sia in Francia sia in Italia il partito, e all'interno stesso dei partiti chi rimane cerca di elaborare delle nuove vie che siano indipendenti dai dettami dell'Unione Sovietica. Sul versante italiano, dopo il decennio centrista tragicamente conclusosi con i morti del 1960, il clima comincia ad essere diverso. Si inizia a parlare di centrosinistra, infatti da lì a qualche anno il Partito Socialista Italiano entrerà nel governo della nazione insieme alla Democrazia Cristiana, e anche il Partito Comunista comincia ad avere accesso alla televisione e alla radio pubbliche. È di quell'anno infatti la prima apparizione del segretario Palmiro Togliatti nella tribuna elettorale. Onorevole Togliatti, la prego. Prima di tutto io vorrei rivolgere un saluto a tutti coloro che in questo momento mi stanno vedendo e ascoltando. Un saluto cordiale è un augurio che ciascuno dia un voto il 6 e 7 novembre che risponda alle sue convinzioni, alle sue aspirazioni e ai suoi interessi, ma soprattutto un voto che consolidi e faccia progredire la democrazia nel nostro paese. Voglio anche chiedere scusa se forse il modo della mia esposizione non sarà pienamente rispondente ai criteri tecnici di questa trasmissione. Trasmissioni televisive, anche dedicate esclusivamente a temi politici, hanno luogo in Italia, se non vado errato, da 5 o 6 anni. Orbene, questa è la prima volta che finalmente un partito che sta all'opposizione, ma conta 7 milioni circa di elettori, può servirsi di questo mezzo di contatto con la cittadinanza. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. I cupi anni 50 sono ormai alle spalle, appartengono al passato. Le nazioni cercano nuove forme di equilibrio, nuove forme di coesistenza. Anche nell'Europa centrale, dominata dalla influenza sovietica, si cerca soprattutto il dialogo a livello commerciale con i paesi dell'Occidente, in particolare anche la Cecoslovacchia, che ha un suo piccolo apparato industriale propenso all'export, cerca di mantenere buoni rapporti con l'Italia, che è un importante partner commerciale. E in questo contesto una emittente come Oggi in Italia comincia a creare non pochi fastidi. E in questo contesto che i fraterni rapporti tra il Partito Comunista Italiano e quello cecoslovacco iniziano a raffreddarsi. Problemi di ordine ideologico, sì, perché comunque il Partito Cecoslovacco è legato a quello dell'Unione Sovietica, mentre in Occidente si stanno cercando nuove vie, soprattutto, come dicevamo prima, di ordine economico. La sopravvivenza di Radio Oggi in Italia è messa più volte in discussione, tuttavia tra alti e bassi si andrà avanti ancora per alcuni anni fino all'appuntamento col destino, un altro appuntamento importante con la storia, quello dell'invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968. Attenzione, Sharka and Milena. Everything all right? Yes, sir. This is Radio Star, the legitimate voice coming to you from occupied Czechoslovakia. Okay. And the 51 meter band. This is Radio Star, the legitimate voice coming to you from occupied Czechoslovakia. Aquí Radio Praga, Czechoslovakia, emisora oficial libre de este país centroeuropeo. Nella notte del 20 agosto 1968 le forze dell'Unione Sovietica e di altri quattro paesi del Patto di Varsavia occuparono la Cecoslovacchia, soffocando la coraggiosa stagione di riforme promossa dal segretario del Partito Comunista Aleksandr Dubček. Poche ore dopo irruppero nella sede della radio cecoslovacca, negli scontri attorno all'edificio, in cui i praghesi si opposero con lanci di pietre e barricate improvvisate ai carri armati, vennero uccisi almeno 15 civili. La sera stessa alcuni redattori della radio pubblica cecoslovacca e della sua sezione italiana raggiunsero il quartiere di Nusle. Era questo l'elegante quartiere residenziale di Praga, lontano dai tumulti del centro, dove era ubicata la sede di Radio Oggi in Italia. E fu proprio da qui che la Radio Praga Libera, creata dai redattori cecoslovacchi, rivolse i propri appelli alla popolazione. Le trasmissioni sarebbero durate una decina di giorni prima che i sovietici scovassero il trasmettitore e le interrompessero. Come rivelato da Stella Amici in La guerra delle onde, nella villa in quel periodo c'erano quelli che lavoravano a Oggi in Italia, quelli di Radio Praga Italiana e quelli di Radio Praga Ceca, che lavoravano dal mattino alla sera. Oggi in Italia andò in onda ancora per qualche anno dalla Praga della sofferta normalizzazione, ma la sua esperienza era ormai agli sgoccioli. L'ultima trasmissione risalirebbe al 31 marzo del 1971, ma alcune fonti citano il 1969 o il 1970, e i materiali d'archivio della radio, testi e registrazioni compresi, furono affidati a Michelino Rossi, un dirigente del PC a Praga. Rossi stipò tutti in alcuni scatoloni che portò a Roma nella sede del partito a Via delle Botteghe Oscure. Di questi scatoloni si sono perse le tracce. Bene, amiche e amici ascoltatori, questa era la storia di Oggi in Italia, la radio che sembra non ci sia mai stata, non sia mai esistita, perché le testimonianze che di essa si hanno sono esclusivamente cartacee, eppure questa emittente ha fatto da contraltare alla RAI per oltre 20 anni. Abbiamo cercato di riassumerne le vicende nel poco spazio che abbiamo a disposizione, e ovviamente, come ogni trasmissione di storia che si rispetti, va reso il giusto omaggio alle fonti che andiamo a citare. Innanzitutto Philip Cook e il suo saggio Oggi in Italia, la voce della verità nell'Italia della guerra fredda. L'articolo su Oggi in Italia, redatto da Lorenzo Berardi, redattore di Centrum Report, che è un sito di storia. Altre fonti bibliografiche sono il libro di Giuseppe Fiori, Uomini Ex, e Praga, radio clandestina, di Paola Oliva Bertelli. Mentre le testimonianze sonore che vi abbiamo proposto nel podcast provengono dalla trasmissione Le voci della guerra fredda, Radio Praga contro Radio Roma, un programma di Radio 3 di 20 anni fa, redatto da Giovanni De Luna e trasmesso da Radio 3. Le voci di Sandro Curzi e Carlo Ripa di Meana vengono invece dal documentario realizzato da Claudia Cipriani, intitolato La guerra delle onde, che reperibile sul sito Vimeo. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi aspettiamo per le prossime trasmissioni. Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto! Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.